qua si scatenano i ricordi televisivi. Ci avete rovinato la testa, bastardi. Questa la dedichiamo a Fabrizio che ce l'ha tirata fuori. Che ce l'ha tirata fuori dalle sinapsi. Dobbiamo salutare Rosco Pickle Train, ma soprattutto il suo cane. Il cane di Rosco non mi ricordo. Aia. Cazzo, chi si ricorda come si chiamava il cane di Rosco Pickle Train e ce lo dice, vince una birra. Vince una bici. 333-180-9494. Si scatena il delirio in studio. Gianni, la vogliamo pistola alla mano. Se vivi di botte, gran battaglia e poi le strade sparse volo fatte insieme a noi. Le strade sante di Sinitra poi le preferisco. Dell'atomica ti assicuro. Cazzo, ma quanti erano cotonati, oh, ve la ricordate Desi? Desi, ma il pan non si è mai capito. Desi era la cugina, no? Come fate voi con le voci? Sì, però era la cugina. Bene, vi dico, buone, avete fatto buone di Rosco Pickle Train. Avete fatto buone. Spettacolo, sta sigla qua veramente. A me mi piaceva tantissimo di Boy Luke. Il fatto che se superavi la contea eri salvo. Cazzo, a me questa cosa mi piaceva spaccare. Ma era una cosa che non gliela chiedevo a mio fratello più grande. Ma perché qui in Italia non c'è che tu superi? C'era ancora la frontiera. Volevano fare questo. Federalismo italiano prevede anche questo. Hai capito che ti rincorrono in Padania, superi il Po. E fuori dai guai. Busso che infatti è un piccolo Berlusconi. È vero, cazzo, è vero. Certo. Infatti la Recicola l'ha presa immediatamente. Insomma, queste strette di mano che la radio dà alle altre radio. Okay, sì, diciamo che è un a loop. Pensare che possiamo voler bene anche, tramite la RAI. Anche, insomma, un testo però, personalità di successo. Ma allora erano federalisti, no? C'erano la bandiera su Tito. Tanto forse ne arrivava qualcuno d'azzardo di passaggio. C'era il meccanico che era nero, come vedi, ruolo umile, sempre sporco, veniva sempre fuori da un motore, ma salvava il culo a tutti. Si riparava il generale che sarà schiantato contro un platano dei 120 miglia. Dai, basta, andiamo in discoteca, sempre lo stesso periodo, andiamo in discoteca, un grande successo. Banda di Lubia, affamati. Un grande successo italiano di quei tempi, anche se aveva un cognome che era il nostro. Gianni, allora, il nome è il nome di uno stato, questa cantante si chiama col nome di uno stato europeo. Abbassami Boy Luke che non sento un... Gianni, vai. Sì, Portogallo. Una cantante che si chiama Portogallo, dai! Ma no, uno sta Portogallo. Portogallo, adesso Lisbona. Sentiamo la nuova hit di Portogallo, esatto. Sandra Portogallo, dai. Porto una Lisboa. Dai, ci sei vicino, dai, un altro Lisboa, Madrid. Un'altra Spagna. Spagna, Ivana Spagna. Una grande, bellissima donna e una grande interprete. Facciamo tanti auguri, la presentiamo pubblico così integralmente. Devo dire con estremo così, non so se è vergogna. Eh no, è un pezzo di figa. O anche no. L'ho ballato un sacco. Eh sì, cazzo. 85-86, solo 16 anni fa. Che cazzo. 25. Io questa me la ricordo che la suonavano nel circo che si piantò vicino a casa mia. Sì, era da Fiere, bravo, bravissimo, da Calcinculo. Lo spiantarono. E lo trapiantarono. Sì, sì. Beh, guarda, io così ti appoggerai un pezzo un pochettino tempo, più essere... moderno come testo. Gianni bisognerebbe abbatterlo con Socio un pochino di cinghiali, ma questa sera... abbiamo finito le pallottole d'argento col suo grazie quindi, mi complimento col mondo dei busoni e quindi dei ce lo dobbiamo tenercelo di entità di... vabbè, noi comunque dai mo fortunati lo siamo noi come uomini. Io ho una figlia, let them brobbies make a retake. Walk forth into the town. Oh my God, the magistrate. Now the law amongst the streets. But e adesso vi metto un pezzo di quello di quel per di quell'epoca in cui i cartoni animati ancora non andavano su Mediaset e Cristina D'Avena e la sua Valeri Manera prendevano il monopolio delle canzoni per bambini. Prima di quel periodo le canzoni per bambini avevano delle orchestrazioni assolutamente incredibili e di spessore. L'altra puntata vi ho fatto sentire Astro Robot. Questa volta vi faccio sentire Starzinger, che c'è un coro dietro che potrebbe ricordare un coro socialista di fine Ottocento. Probabilmente la melodia è stata tirata fuori da una cosa del genere. Sembra un coro che avrebbero potuto fare i Corvi a fine degli anni 60. La faccio lunga, ve la metto. Mettila. Che è? Sono io, sono. No. Che stai facendo? Mi hai fregato. Devi andare. Non era partito, era... Sei un caprone. Nella galassia una stella brilla in più. È la principessa Aurora, bella più che mai. Il suo messaggio è pace, amore. Space. che poi me l'ha detto. Quando lascio il gazebo io me la piglio veramente seria, tutto invece per tutte quelle altre cose, quello che fanno di me una persona seria, mi vuole veramente bene, ma così veramente che ve le invio da qui e vi arriva a tutti. Buon ascolto. E la parentela, la mamma è la mamma, io sono un generale di mamma, la adoro, e mia mamma con questa musica e voi, o gli viene un forte mal di testa. È musica di 30 anni fa. Invece mi ha detto che apprezza molto. Dai 30 no, dai 20. Apprezza molto. È propaganda e tifa per me e i miei amici, ma in un modo così spropositato. Oh, a me in divisa mi conosce, ma mia mamma guarda, è un'altra cosa. Così tutte le altre donne, come ho detto, nel mondo che si sentono il piacere di un sorriso finale, di un cenno di intelligenza per dire la strada giusta l'abbiamo trovato ed è di chi vince. Io così, che ho vinto, lo avrei protetto veramente. Allora Gian, il prossimo pezzo vorrei fare un tributo a un personaggio degli anni 80, un grande comico che purtroppo lavorava per Italia 1 perché quelli erano gli spazi in cui venivano delegati i comici del nord. Lui un piccolo genio, assolutamente surrealista, fece una trasmissione che durò penso non più di un paio d'anni. Che andatevela a vedere magari dei pezzi su YouTube e vedete quanto era avanti il tipo. Adesso fa un po' di, fa un po' l'attore, un po' no. Vi mettiamo un pezzo, magari un po' di quelli meno conosciuti, così ve lo imparate. Lui è Francesco Salvi. Al lupo il lupo, al lupo il vanò. Ma che stava nel 33 giri dopo c'è da spostare una macchina. Chi sono io? Chi sono io? No, sono lo zio Pino, lo zio Pino, lo zio Pino, e c'è la balena, guarda la balena, guarda la balena, ciao. E ricordati di abbassare i vicini che disturbi il volume, d'accordo? Genio. E il lupo? Poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo il vanò. Ma! pensa un lupo? Prendo un lupo. Il lupo c'ha l'alito selvaggio, fa scena in società. E poi il lupo c'ha so ben perché. Il lupo è buono e fanno. Il lupo è buono e fanno. Ho appena liberato una villa al rubio, sono pieno di lupi così. Una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo è vano. Ma il lupo è il lupo. Genio! Assolutamente, per me Salvi ha avuto un momento in cui eravate tutti un totale. Ed era questo, credo, il momento di suo massima espressione creativa. Lo voglio proprio ringraziare perché è veramente un cretino con la targa, davvero. Massimo rispetto. Gabri Ponte è tanta roba! Gabri Ponte è tanta roba! Oh! Ma cos'è sta paranoia? Aspetta, fammi fare! Dai, facci ballare! Lo fanno tutti, tranne te! Cosa? Vai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico! Ok! Rivolgendo alle spalle Thor Bresciola. In questo momento è algido, eppure sappi caro Thor che questo è trash. Si rifugia dentro i suoi dischi della RCA, capito? L'estate lavorano tutti perché tutti lavorano, tranne te. Questo pezzo piace a tutti com'è, che tutti lo cantano, tranne te. La vita che sogni è tutta un pacco, come in TV, affari tuoi. È come la verginità, d'un tratto prima la perdi e poi la rivuoi. Qui c'è la musica e tu non balli, balli, parli, parli, parli. Easy Rider sopra un Harley, con la maglia di Bob Marley. Le merine, la gente le mima, dopo tutto sono meglio di prima. Lo spettacolo è finto di brutto, hanno tutti capito il trucco, tranne te. faccio il rap in francese, mi fa più elegante cantante. Tira sulle mani se anche tu c'hai l'amante. Nella pista c'è fibra a palla, e il mio ragazzo guarda come balla. A 12 anni a contare le stelle, a 30 anni a contare le parcelle. Nella testa ho mille particelle, di notte sogno mille porcelle. Mi regalano le tagliatelle, quando mi vedo la TRL. Di politica non sono l'esperto, ma dicono l'Italia sarà presto un deserto. Tra 20 anni saremo tutti quanti emigrati a Saint-Tropez, tranne te. Pezzone sì, dai, scaldamuscoli però. Brutti ricordi, cioè. È veramente. Gabri Ponte è tanta roba! È veramente così, un po'. Un po'. Boh. Come un hamburger di McDonald's, capito? Una roba un po'. Roba! Hai capito? Per cui niente, adesso io volevo mettere questo qua per farmi perdonare. Buonanotte. Per quel che mi riguarda, chiuderà sta bracciola. 2010, 20 anni dopo. Non abbiamo da lasciare nessun appuntamento né per la prossima trasmissione agenda né per vuota. La prossima agenda vuota, aiuto, i nostri manager stanno lavorando a pieno ritmo, le nostre quotazioni stanno salendo, per cui affrettatevi perché tra un po' ci vorranno 2000 euro per il latrina, ve lo dico, più la droga per Gianni che non conosco perché bravo. Non prendo droghe. Bravo Gianni, bravo Gianni, un messaggio importante no, da dare ai giovani. Esatto, non conosco. Allora, adesso metto. Giovani, non conosciate. Non conoscete. Lo facciamo. Ma era bello questo silenzio. Sì, hai visto? C'è stato quell'attimo di sospensione. Dice, cosa succederà adesso? Stanno veramente respirando dopo una trasmissione così simpatica e bella in cui ci siamo ritrovati coinvolti tutti. Che bello, ma fisicamente ovunque siamo. Palazzo si alzò Gianni, fantastico. Ah, sì, sì, sì, è vero, è vero. A quale problematiche? Allora vi metto l'ultimo pezzo, un pezzo romantico, molti lo conosceranno per la versione dei Blue Beaters, soprattutto i più giovani, invece la cantavano stupenda. Una stupendissima Ornella Vanoni, la canzone era di Gino Paoli, buonanotte, state buone. Gianni saluta. Saluto tutti gli ascoltatori ovunque siano. Che cosa c'è? C'è. Che io ora vivo bene se sono